che è una località dell'Iraq dove i Marines fecero un massacro, svelato tra l'altro dalla stampa americana, dal New York Times. C'è anche un libro che ho appena finito di leggere, molto molto bello, sul tema e sulla vicenda dunque dell'Iraq. Trovate alcune pagine. L'ultima vicenda che vi segnalo, giusto per chiudere così con un po' di colore, tempi di austerity anche in Rai. Un taglio a Vieri, l'avevamo detto proprio qui, il cachet per Ballando con le Stelle, come si chiama il programma? Vabbè, quello lì della Rai, Ballando con le Stelle, era di 650.000 euro, anche Gianni Rivera aveva chiesto, pare, 450.000 euro, alla Rai hanno detto, ma che scherziamo, insomma, sono un po' troppi, o riduce il cachet Bobo Vieri, oppure non balla. E quindi 650.000 euro per Vieri e 450.000 per l'ex calciatore Gianni Rivera sono troppi. Tempo di austerity anche loro. Abbassatevi un po' il cachet o non ballate. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua, sono le 8:22 minuti. Allora, oggi alla Camera si discute la manovra con il voto di fiducia, credo a partire dalle 9. Voglio salutare l'onorevole della Lega Fabio Rainieri. Onorevole, buongiorno. Buongiorno. A lei la discussione interesserà relativamente. È stato espulso ieri dall'aula. Perché? Che ha fatto? Si è seduto sui banchi del governo esponendo degli striscioni, dei cartelli. È così? Ma intanto sono stato espulso ieri, ma poi non è stato dato atto a questo provvedimento. Io oggi sarò in aula e la discussione mi interessa particolarmente. Sarò in aula a votare no alla fiducia messa da questo governo, che ha dovuto appunto porre la fiducia con teoricamente dei numeri bulgari, sì. 570 parlamentari contro 60 quelli della Lega, e questo governo ha dovuto porre la fiducia perché con i mal di pancia che ci sono all'interno della nuova maggioranza, altrimenti avrebbero rischiato di non passare il provvedimento. Vabbè, ma la fiducia magari si mette anche per non fare delle modifiche. In ogni caso, ma cosa sta facendo la Lega? Perché prima il Senato, adesso la Camera. Bossi dice noi facciamo politica e non casino, ma un po' di casino l'avete fatto, cioè, ci tocca fare casino, perché i media in questi giorni non hanno dato nessuno spazio a quelle che erano le rimostranze della Lega. All'interno del Parlamento non ci è stata data la possibilità di portare avanti quelli che sono gli emendamenti che servono appunto per modificare, migliorare il testo del provvedimento, e quindi a questo punto il casino, tra virgolette, ma non ritengo che sia casino, sia giusto la definizione del nostro leader, quella di fare politica e di dire e di far capire alla gente come bisogna purtroppo utilizzare lo strumento della Camera dei Deputati per far capire alla gente che è d'accordo con noi sul no a questo provvedimento, perché non ne può più di queste tasse. Quindi ostruzionismi parlamentari, anche questi striscioni, un po' di gazzarra, si è visto qualche insulto, è volato, Cialtrone ieri ha dato a Fini un suo collega, l'onorevole Pini. Ma credo che abbia fatto bene, nel senso che il Presidente della Camera deve stare attento a quello che dicono i parlamentari. Cioè è un Cialtrone, Fini è un Cialtrone. Con il comportamento che ha avuto in questi anni credo che non abbia dimostrato di essere corretto, di essere una persona seria. Però Cialtrone è un'altra cosa. Cialtrone. Lei non so se ha visto come si è comportato, il collega Pini stava appunto intervenendo sull'emendamento e il presidente Fini invece si stava tranquillamente facendo i cavoli suoi, parlando al telefono, parlando con altre persone. E appunto questo non è rispetto nei confronti di un parlamentare eletto dal popolo. È partito un insulto. Senta, ma la Lega, qualcuno vi accusa di aver fatto una sorta di giravolta, cioè fino a un mese fa approvavate tutte le cose che adesso contestate, anche il rapporto con Berlusconi è abbastanza certificato ai minimi termini tra Berlusconi e Bossi. Cos'è questa giravolta improvvisa della Lega? Vi siete riscoperti di lotta? No, non è esattamente così, perché noi sulle pensioni, sull'ICI abbiamo sempre detto di no, e infatti non è mai passato nessun tipo di provvedimento di questo genere. Noi avevamo dato la disponibilità a Berlusconi ad approvare alcuni provvedimenti finalizzati a portare a casa quello che era per noi il punto fondamentale del nostro mandato, cioè il federalismo. A questo punto è venuto meno, Berlusconi ha deciso di fare una politica diversa, di rinunciare a quello che era il mandato che gli elettori gli avevano dato. E quindi noi ha smesso non siamo di lottare, più stati d'accordo, ha smesso non siamo di più stati d'accordo su questa linea e ci siamo rimessi a fare quello che è stato il mandato dell'elettorato della Lega. Comunque lei, onorevole Ranieri, conferma oggi sarà in aula, cioè è pure espulso? Assolutamente sì. Cioè non, no, ma non sono stato espulso. No, espulso ieri. No, assolutamente no, anche questo è sbagliato perché ieri io sono rimasto in aula e addirittura ho votato insieme al mio collega Buonanno, abbiamo votato il... Ma c'è proprio l'audio di Fini, lei è espulso dall'aula. Cioè ma lei... Fini parla molto e dice poco, evidentemente anche su questo ieri ha voluto fare un po' di ciuma, poi non se l'è sentita di portare avanti quello che è stato il provvedimento. Cioè quando hanno detto, io ho visto anche le immagini che stavano cercando dei commessi di tirarla su, lei è un po', quanti chili pesa, se possiamo dirlo? Ranieri, perché... Beh insomma sono 100 chili. Cioè. Infatti facevano fatica a tirarla su da... No ma guardi, i commessi intanto si sono comportati in modo assolutamente corretto, come noi ci siamo comportati nei loro confronti, non c'è stato nessun problema con loro, noi siamo rimasti seduti perché nessuno può spostarci da quello che è il nostro luogo di lavoro e quindi la Camera dei Deputati. Dopodiché non c'è stato nessun momento di tensione tra di noi, ci siamo poi alzati quando abbiamo ritenuto di doverlo fare, siamo messi nel nostro banco. Ma quindi, cioè, voi non avete per neanche un secondo abbandonato l'aula, è stata un'espulsione farlocca? Assolutamente sì, Fini non se l'è sentita da codardo qual è di portare avanti quella linea che avrebbe portato alla Camera dei Deputati ieri una discussione ancora più animata di quanto non lo sia già stata, ma questo dimostra quanto non sia in grado di gestire l'aula di Montecitorio. Senta, onorevole Ranieri, io devo dare, tra poco noi parleremo di lobby, di farmacie in questo caso, contro le liberalizzazioni bloccate eccetera, però qualcuno l'ha accusata in passato, l'accusa di essere uno degli esponenti delle lobby più potenti in Italia. Lei di lavoro, diciamo, fa l'allevatore? Assolutamente sì. L'allevatore, e in passato ha anche confessato di essere credo di avere una multa per le celebri quote latte di 1,5 milioni di euro dall'Unione Europea? Beh, non è esattamente così, ma comunque sì, io ho una multa sulla produzione teoricamente splafonata del latte, cosa che invece è stata smontata da una commissione voluta dall'allora ministro Zaia, sì, leghista come vabbè, lei. Sì, vabbè, assolutamente sì, io sono orgoglioso di aver avuto un ministro come Luca Zaia e appunto questa commissione capeggiata da un colonnello dei carabinieri ha dimostrato chiaramente che in Italia non si è mai splafonato la produzione del latte, che questa multa è ingiusta e che quindi in Italia non ci sono le vacche per produrre quel però latte che c'è stato l'attuale, l'attuale ministro invece agricoltura dice quelle multe vanno pagate. Ecco, a proposito di lobby, lei si sente un lobbista delle quote latte? Uno no, che... guardi, io mi sento un lavoratore tradito da questo governo che lavora tutte le mattine e come ho detto anche nel mio intervento alle 5 di mattina ieri, di solito mi alzo quando sono a casa a quell'ora e vado nella mia stalla a mungere le vacche, non mi sento né un lobbista né tantomeno un delinquente come ci aveva definito il povero Casini, mi sento una persona che lavora per produrre, per dare da mangiare alla propria famiglia, per mantenere una categoria, perché la categoria degli allevatori, ricordiamoci, è quello che ha dato lustro ai nostri prodotti in tutto il mondo, parlo del parmigiano reggiano di cui io sono un produttore, e mi sento invece uno tradito da un sistema che ha voluto, per colpa di qualcuno, arricchire altre persone che invece non hanno più il diritto di farlo. Vabbè, quindi non si sente, però dovesse essere confermata la multa che lei contesta eccetera, ma al di là delle questioni tecniche, nel caso fosse confermata quella multa è da pagare, no? Ah certo, assolutamente, se fosse confermata dovremmo pagarla, ma in quel caso dovrei chiudere l'azienda io come altre migliaia di aziende agricole in mano ai giovani che fanno del nostro prodotto italiano una... Ma perché si sarebbe nel caso accertato che avete violato la legge? No, non è così, noi abbiamo accertato per già tre commissioni, la prima vorrei ricordarle che nel 95-96 l'allora Presidente del Consiglio Romano Prodi fece una commissione comandata dall'allora Generale Lecca che anche lì dimostrò che in Italia non c'erano mai state le splafonamento sulle quote latte. Da allora purtroppo qualcuno in Italia, lo sappiamo, non ha mai voluto mettere fine a questo, perché i sindacati ed altre persone hanno mangiato in questo sistema, tant'è che è stato dimostrato che c'è anche dietro la mafia in questo sistema, e comunque qualcuno si è arricchito con quote di carta, vuol dire che il latte entrava in Italia in nero, certo, e veniva venduto bianco come latte italiano. Esatto, questa è una truffa però. Questa sì. Onorevole, io intanto la ringrazio, cioè, ci conferma, non ha mai lasciato l'aula, oggi si siederà, insomma vorrei capire un attimo questa espulsione, allora che cosa sia, che espulsione sia, un'espulsione di carta anche questa. In ogni caso la ringrazio per essere stato con noi, onorevole Ragnetti. Buona giornata ovviamente, onorevole Fabio Rainieri della Lega, uno dei due espulsi, ma espulsi per finta, si è capito ieri alla Camera. Noi parliamo di liberalizzazione, allora ancora sui farmaci, le farmacie, oggi parleranno le parafarmacie tra poco dopo pubblicità e meteo. Siamo qua allora alle 8:37 minuti, vogliamo tornare sul tema che ieri abbiamo trattato insieme a quello dei tassisti, nostri grandi ascoltatori, li salutiamo tutti cari della lobby dei tassisti, così come adesso sta spuntando quella degli edicolanti che minacciano 3 giorni di serrata. E vogliamo però approfondire la questione delle farmacie, perché ieri avevamo la presidente di Federfarma, Anna Rosa Racca, che ci ha spiegato il perché della contrarietà a questo provvedimento, che vogliamo ricordare, si voleva liberalizzare, cioè permettere la vendita dei farmaci di fascia C, quelli a totale carico dei consumatori, degli italiani, anche estendendo la vendita nelle parafarmacie. Allora saluto, tutto questo è saltato, e oggi Catricalà, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, intervistato alla Repubblica, dice non ci fermeranno le lobby, si sente da decenni, comunque non ci fermeranno, ripresenteremo tutto, sui farmaci siamo delusi e dovremo ripresentare il tutto. Allora saluto il presidente, il segretario nazionale per la verità dell'Associazione Nazionale Parafarmacie Italiane, Massimo Brunetti, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Intanto, che cos'è una parafarmacia? Perché il nome spaventa qualcuno, nel senso, dice che è, qualcuno ieri mi ha ironizzato dicendo sembra che entriamo e troviamo un muratore invece che un farmacista. Voi siete tutti farmacisti e quando uno entra in una parafarmacia trova un farmacista, è così? Sì, diciamo che la parafarmacia, per poterla visualizzare per i radioascoltatori, non è altro che la farmacia quando uno vi entra. La differenza tra la parafarmacia e la farmacia sostanzialmente è ciò che è dietro il banco, vale a dire le cassettiere da cui il farmacista preleva il farmaco prescritto dal medico. Questa visivamente è la differenza. Nei fatti, nella parafarmacia obbligatoriamente già oggi vi opera un professionista che è il farmacista, che ha lo stesso titolo, che ha lo stesso percorso professionale di quello che lavora in farmacia. Quindi è laureato, ha fatto, è un farmacista a tutti gli effetti. Non è diverso dagli altri, è esattamente lo stesso farmacista che magari fino all'altro ieri lavorava in farmacia. È certo. E quindi oggi, magari perché ha avuto qualche disponibilità finanziaria in famiglia, ha potuto aprire la sua parafarmacia e spererebbe che con questa possa dar luogo ad un suo percorso. E allora facciamo così, segretario, intanto mi lasci salutare anche il professor Silvio Garattini, lo ringrazio. Professor Garattini, buongiorno, buongiorno, grazie per essere con noi insieme a Massimo Brunetti, che rappresenta appunto le parafarmacie italiane. Brunetti, perché voi accusate e dite c'è una lobby di chi in Parlamento? Per esempio le dico, l'onorevole Chiara Moroni, che avevamo ospite oggi, in questo momento al cellulare spento, l'avevamo chiamata perché è farmacista, figlia di una farmacista, nipote di un farmacista, accusata di essere una rappresentante delle lobby politiche dei farmacisti. Brunetti, voi cosa accusate? C'è una lobby in Parlamento che frena le liberalizzazioni su questo tema? Abbastanza evidente. Quella della lobby dei farmacisti, ma sarebbe improprio anche questo, è la lobby dei titolari farmacisti di farmacia, che in Italia sono grosso modo 20.000, 18.000 e poco più sono le farmacie in Italia. Questa cassa, diciamo questi privilegiati che per legge impone a chi sta fuori di non poter entrare salvo se non hai soldi per comprarne una, e le dico che costano milioni di euro acquistare una farmacia, poi se vuole possiamo entrare nel dettaglio. Ovvero è possibile... Ma me lo dica subito, quanto costa? Più o meno, eh? Ci dia un'indicazione, quanto costa? La farmacia è legata al fatturato annuo, sì. Tenga conto che mediamente in Italia una farmacia... c'è chi più e chi meno naturalmente, fatturano oltre 1.200.000 euro anno. Il mercato della farmacia varia tra i 2 volte il fatturato e i 3 volte il fatturato, quindi lei capirà che ci vogliono per 3 milioni mediamente, poi ci sono quelle che costano molto di più e quelle che costano molto di meno, e sono quelle naturalmente presenti nei piccoli comuni che hanno un bacino d'utenza minore e quindi un fatturato minore. Ecco, però si fermi un attimo, perché tra poco le vorrò chiedere anche la questione del spesso si dice le farmacie vengono tramandate di padre in figlio, vorrei capire, perché poi magari sono leggende, vorrei capire che cosa c'è dietro a tutto questo. Però prima Silvio Garattini, allora tra l'altro lei ha fatto oggi un'intervista alla Stampa dicendo è una questione molto banale da capire, c'è una torta che vale milioni di euro, quella dei farmaci di fascia C a totale carico dei contribuenti, se questa torta la mangiano in i farmacisti si dividono una fetta più grande, se devono estenderla anche ad altri si devono mangiare una fettina più piccola. La possiamo ridurre così la questione delle liberalizzazioni? Sì, certamente, questo è il problema, perché da altri punti di vista non c'è nessuna difficoltà, voglio dire, chi rappresenta la professionalità nella farmacia è il farmacista. Non c'è ragione per pensare che il farmacista che sta in farmacia sia una persona adeguata e chi sta invece in un altro negozio non lo sia più. Quindi non è un problema che riguarda la salute dei cittadini o che riguarda le posizioni in cui vanno messi i farmaci, è un puro problema economico. E ognuno naturalmente difende la sua fetta di interesse. Ma difendere una fetta di interesse è di per sé una cosa negativa, professore? Voglio dire, cioè che i farmacisti... Dipende dal punto di vista in cui ci si pone. Cioè, è chiaro che personalmente, come punto di vista personale, ritengo che non c'è ragione per cui ci debbano essere dei privilegi per determinate categorie e non per altri. In fondo la farmacia oggi è un negozio che non vende più tanto farmaci, ma almeno in moltissimi posti vende una quantità di altri prodotti, quindi non si capisce perché debba avere questo privilegio per cui soltanto quelli che si chiamano farmacia possono vendere, perché ripeto, è fermo il principio che alla distribuzione dei farmaci, data la caratteristica del problema, debba predisporre un farmacista, cioè una persona che ha la professionalità adatta per distribuire i farmaci. Di che torta parliamo, economicamente parlando, professore? Cioè questi farmaci di fascia C che si vorrebbero estendere anche nella vendita delle parafarmacie è cosa che non si è riuscita? Parliamo alla torta di qualche miliardo, perché credo che i consumi privati di farmaci, cioè quelli che non ricadono sotto il Servizio Sanitario Nazionale, siano qualcosa come 60 euro per pro capite per anno, quindi sono sostanzialmente, vuol dire, circa 3 miliardi di euro, penso. Circa 3 miliardi di euro. Sì, allora, questo contiene però sia i farmaci da banco, che però già sono stati liberalizzati, sì, sia i farmaci con ricetta medica. Quelli di fascia C che invece non sono stati liberalizzati. Che comunque non sono di interesse per il Servizio Sanitario Nazionale per varie ragioni. Allora, sentiamo le informazioni sul traffico, oggi maggiormente interessante e ancora più interessante visto che c'è lo sciopero ovviamente dei mezzi. Poi ripartiamo con qualche ascoltatore, vorrei capire anche poi da Massimo Brunetti, perché l'accusa che spesso viene fatta è questa. Le parafarmacie spesso sono degli angoli all'interno di, anche centri commerciali. Allora, anche ieri la presidente di Federfarma ha detto in realtà si voleva con questa liberalizzazione favorire la commercializzazione di molti prodotti all'interno dei centri commerciali, una sorta di modo per svendere i prodotti, diminuire così la sicurezza e favorire anche lì altre lobby. Allora, 800240024, do la parola a Raffaele da Cosenza, che leggo dalla redazione, mi dicono essere un farmacista, è così Raffaele? Certo, certo. Buongiorno, dica. Sono un farmacista rurale, la mia farmacia è in un comune in provincia di Cosenza, un comune sotto i 4.000 abitanti. Sì. Ora le vorrei far capire un po' la lobby a cui appartengo. Io appartengo alla lobby di un professionista che lavora 10 ore al giorno per 6 giorni a settimana e che fa la reperibilità per il settimo giorno a settimane alterne. Vede, in Italia per risolvere un problema che probabilmente c'era, questo non lo metto in dubbio, di una maggiore diffusione eventualmente delle farmacie, della distribuzione del farmaco, si è fatta la solita scelta all'italiana, cioè si è creata una mezza professione. Sì. Come lei sa, non esistono i paraingegneri, non esistono i pararchitetti, cioè esistono gli architetti, esistono gli ingegneri. Però forse il nome è sbagliato, ma sono farmacisti, abbiamo capito, no, cioè, certo, tanto no, quanto no, voi. No, ma io li rispetto, ma ci mancherebbe. Chiamarli parafarmacie forse è stato un errore. È stata un'anomalia, mi dispiace per loro, perché praticamente si è creata una paraprofessione effettivamente, che non è una professione completa, perché, le spiego, il problema fondamentale è che si è risolto, come dicevo, all'italiana un problema che probabilmente c'era. Guardi che nei comuni come il mio, nei comuni di 1.000 abitanti, di 2.000, le parafarmacie non esistono perché c'è un servizio fatto professionisti che con tanti sacrifici, guardi che la lobby a cui appartengo io, cioè col lavoro che faccio, do forbice, io ne vedo poche persone forbice lo trova solo ai uno. Lo sento di sera, io sento lei di mattina e forbice di sera. Ascolti i cruciali di sera, che meglio. Cioè, sono pochi quelli che vorrebbero appartenere a questo tipo di lobby per l'attività, per quello che facciamo quotidianamente. Vabbè, sì, Raffaele, io capisco, no, ma mi lasci dare, perché sennò non c'è spazio. Capisco il suo sfogo, voglio sentire un altro farmacista. Ci ha chiamato, vedo, Paolo dalla provincia di Bergamo. Capisco tutto, però dire lavoriamo 10 ore al giorno, ma non è questa la questione di essere lobby, è la questione di non volere aprire a una maggiore distribuzione, che tra l'altro, vogliamo dirlo, lo ha detto lo stesso Catricalà, farebbe abbassare dell'8-9% i prezzi di quei farmaci. Paolo dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo mettere l'accento su un aspetto che non sento parlare in questi giorni, sì, ed è invece molto importante. La farmacia attuale si basa su uno dei pilastri fondamentali, che è la pianta organica. Pianta organica che esiste in tutti gli stati d'Europa. Permette di avere farmaci non solo quelli che magari vedete voi in centro a Roma, in centro a Milano, con dimensioni enormi, e permette di avere farmacie anche nelle valli, in cima alle montagne, sì, certo, dovunque, unico presidio sanitario presente. Ormai chiudono tutti, chiudono le poste, chiudono le banche, l'unica struttura che resta aperta e che fa servizio. Ma va bene Paolo, ma chi mette in dubbio questo? Nessuno mette in dubbio che le farmacie siano fondamentali, soprattutto nelle zone dove, non certo a Milano, a Roma, dove ce n'è uno ogni angolo, ma nelle zone rurali, va bene. Ma chi mette in dubbio questa cosa? Cioè, questo che non capisco con la liberalizzazione. Però, visto che abbiamo 3 minuti ancora, Brunetti, risponda alla questione delle accuse. Perché la farmacia, dice, si eredita, e poi soprattutto delle accuse di voler favorire la grande distribuzione, così dicono le farmacie. Una precisazione: intanto le farmacie rurali operano in un territorio, come uno dei farmacisti intervenuti ha ben detto, nei quali non c'è concorrenza, perché le parafarmacie lì non apriranno, non essendoci mercato. C'è un mercato che è sufficiente per la farmacia, e quindi è difficile che si possano creare condizioni d'ambiente perché anche la parafarmacia possa aprire lì. Le parafarmacie aprono evidentemente dove c'è possibilità di mercato, dove c'è possibilità di concorrenza. Un'ulteriore cosa: le parafarmacie hanno, con la loro presenza, obbligato le farmacie ad introdurre lo sconto, ad abbassare i prezzi, tutto vantaggio dei cittadini. Prima del 2006, prima delle parafarmacie, gli sconti non c'erano in questo settore. da oggi, cioè da allora, dal 2006, gli sconti ci sono a tutto vantaggio dei cittadini. Ma lei si sente un lavoratore dimezzato, cos'è, una figura professionale inventata, al parafarmacista? Ma non è assolutamente vero, c'è e ci deve essere un percorso professionale che dia capacità di accesso a tutti coloro che hanno una laurea e sono abilitati all'esercizio della stessa. Dopodiché, per quanto riguarda gli esercizi che sono all'interno dei corner, della GGO, sì, i cosiddetti corner, in Italia sono su 4.000 che sono le parafarmacie oggi esistenti, sono circa 300. Ah, quindi pochissimo. Un'esigua minoranza. Mi faccia chiedere in chiusura, professor Garattini, si riuscirà a vincere le lobby? Oggi Catricalà, intervistato a Repubblica, dice ce la faremo. La sentiamo da decenni, in questo caso a lobby identificata dei farmacisti, ma ce ne sono tante in Italia. Garattini. Avevano questa volta una buona possibilità e invece sono tornati indietro, quindi è difficile, perciò speriamo che ci riescano. Ma dice che è difficile, nel senso, perché? C'è solo una questione di appoggi politici? Ma credo che sia una questione molto complessa, cioè certamente i politici si vede che sono resti a togliere determinati privilegi, forse hanno qualche vantaggio anche loro dal fatto che ci siano. Che ci siano questi privilegi. Lasciamoci con questo, con questo dubbio. Intanto io vi ringrazio, il professor Silvio Garattini, che voglio ricordare, dell'Istituto Mario Negri, dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche, così come ringrazio Massimo Brunetti, presidente del segretario nazionale dell'Associazione Nazionale Parafarmacie Italiane. Un saluto a tutti con Alessandro Longoni in redazione, Elisabetta Fusconi e Peter Bescapè in regia. A lunedì.